Non piangere più, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso dolce mia fanciulla m'ascolta. Oh, mia povera lui.